Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. L'accordo tra la Grecia e i creditori sembra più vicino, ma Berlino sta frenando la Merkel. Poco fa ha detto bisogna aspettare l'esito del referendum. Le borse accolgono comunque con euforia le indiscrezioni. Slitta alle 17.30 di oggi la teleconferenza dell'Eurogruppo per discutere la richiesta di Tsipras per negoziare un terzo salvataggio. E proprio ho davanti la lettera inviata dal premier greco in cui accetta quasi tutte le condizioni imposte da Bruxelles. Al primo posto la riforma dell'IVA, mantenere lo sconto IVA del 30% sulle isole, scrive Tsipras. Per quanto riguarda le misure fiscali strutturali, Tsipras dice che bisogna aumentare gradualmente l'acconto dell'imposta per le imprese individuali al 100% ed eliminare allo stesso modo gli sconti fiscali per gli agricoltori entro la fine del 2017, ridurre il tetto per le spese militari per 200 milioni di euro entro il 2016. Per quanto riguarda le pensioni, Tsipras scrive che la riforma del 2010 sarà applicata, ma quella del 2012 sarà rinviata fino a quando la riforma legislativa non sarà effettiva nell'ottobre del 2015. E per il nuovo quadro legislativo sarà regolamentato nell'autunno del 2015. Staremo a vedere tra pochi minuti. Il primo ministro greco Tsipras dovrebbe parlare a breve alla nazione in un discorso che sarà trasmesso dalla televisione. Bisogna avere il coraggio di ammettere che la sola visione economica per l'Europa in questi anni non ha funzionato. Forse ha funzionato per la Germania, ma non per l'Europa. Ha fatto fallire obiettivi di Lisbona. Così Matteo Renzi a Berlino, come Europa, ha detto Renzi, e rischiamo di diventare fanalino di coda e non locomotiva. Terrorismo, l'Europa ha dichiarato guerra all'ISIS sul web. Dare la caccia a reclutatori online dell'ISIS e ripulire la rete da contenuti radicali, questa è la missione dell'unità speciale dell'Europol che diventa operativa da oggi. Una task force formata da 15 specialisti provenienti da vari paesi europei che cercheranno di individuare e bloccare gli account sui social media collegati all'ISIS. Secondo alcuni studi sarebbero infatti tra i 46.000 e 90.000 gli account Twitter legati al gruppo jihadista. Europol ritiene che i social media non solo siano fondamentali per veicolare la propaganda dello Stato islamico, ma rappresentino un importante strumento di arruolamento di aspiranti jihadisti in tutto il mondo. L'Agenzia Europea di Polizia, con sede all'Aia, ha calcolato che fino a 5.000 cittadini europei provenienti da paesi come il Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda si siano recati nei territori controllati dallo Stato islamico per combattere al fianco dei miliziani del califfato. A partire da oggi, dunque, Europol potrà chiudere profili sospetti in un paio d'ore. Rob Weinrich, direttore dell'Europol, ha auspicato che la nuova squadra di specialisti, per ora 15 ma in futuro più numerosi, possa essere uno strumento efficace, anche se ha ammesso individuare tutti gli account su social media collegabili all'ISIS è un compito proibitivo. Bisognerà mettere insieme ciò che vediamo online con le nostre informazioni di intelligence e con quelle che ci giungono dalle varie polizie europee, ha spiegato il capo di Europol. Alessandra Schepis, Radio 24. E sole 24 ore. È tutto per Europa 24. Ci risentiamo questa sera in effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.